che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Ciao a tutti, io sono Domenico Manuele Spagnuolo e sono qui per parlare del mio libro. Ho iniziato a fare dei progetti artistici ormai qualche anno, sì, a Erba, perché io sono originario di Erba, sono nato. Ho scritto i miei primi racconti romantici, si chiamava appunto Le parole che meritasti. Poi sono rimasto fermo un po' naturalmente per l'università, che mi ha tolto tanto tempo dalla scrittura, e dopo tanto tempo ho deciso di scrivere questo nuovo libro, perché questo libro nuovo si chiama Del Flow. Orange County, California, di Tedua, che tra l'altro sono riuscito ad incontrare a Como, proprio a Como, e gli avevo detto anche che avevo scritto un libro ascoltando la sua musica, era rimasto davvero contento, e dovrò fargli avere una copia prima o poi. Tedua è un artista che ha vissuto tra Genova e Milano principalmente, perché da piccolo ha avuto dei problemi di affidamento, ha dovuto viaggiare un pochettino. Ha un grande cuore, secondo me, come persona, e penso che questa cosa si veda molto nella musica. È una delle cose importanti. Adesso praticamente più che parlare del mio libro sto iniziando a parlare dell'hip hop in generale, quindi magari vorrei evitare. Vi parlerò un pochettino di più adesso della mia poetica, della mia idea di stile. Allora, il mio libro è diviso in 4 capitoli, ognuno con una tematica diversa. Il primo si chiama La pelle, perché quando ci si approccia all'hip hop si vede qualcosa di duro e ostico, che è molto spesso incompreso, perché non si hanno idee. Un pochino come la cultura internet per una persona che ha 50 anni. Non è un'assenza di volontà, è semplicemente che si vive in un contesto sociale che non ci dà i mezzi per comprendere quello che abbiamo intorno. Adesso tutti i ragazzini ascoltano il rap e i genitori non riescono ad accettarlo. Ma il rap è quello che era il punk negli anni 70, è musica di rottura, qualcosa di completamente diverso, anche a tecnico in un certo senso, che è un tema che mi piace toccare spesso, la tecnicità nell'arte. La tecnicità dell'arte non è assolutamente necessaria per fare un'opera di qualità, secondo me. La tecnicità serve principalmente per avere credibilità, e nel corso degli anni una persona può fare anche un singolo di successo, una poesia di successo, un film di successo, qualunque cosa, perché c'è molto sentimento. Ma senza una certa capacità tecnica rimane difficile affermarsi e mantenere la credibilità negli anni. Perché la popolarità è qualcosa di molto veloce, molto semplice da ottenere, ma che svanisce velocemente come arriva. E quindi io vi sto appunto parlando di questo mio primo capitolo, che si chiama La pelle, ed è un capitolo rozzo, è un capitolo con molto terra terra, molto volgare, molto spinto, che tratta di tematiche principalmente sessuali, con poca poesia nel senso di dolcezza. Non so quanta arte ci sia, anche perché per quanto sia bello autodefinirsi artisti, non si può pretendere di considerarsi artisti, perché l'etichetta di artista ti viene data dalle persone che ti seguono, che ti ascoltano, dai libri che riesci a vendere, nel mio caso specifico, anche se la letteratura scritta su carta secondo me è una sorta di medium morto. e non raggiunge molte persone, è molto più facile riuscire a fare anche successo utilizzando altri medium, come ad esempio a mezzo internet. Basti pensare alla musica, ai Vines, ai contenuti virali, che è quello che sta andando in questo periodo. Però il mio obiettivo non è mai stato quello di fare viralità, per quanto chi mi conosce sa che sono molto interessato ai trend, ma non mi piace cavalcarli. È molto più bello fare qualcosa di rottura, come è stato per il rap, rimanere, crearsi la propria credibilità, far appassionare le persone. A me non interessa cavalcare l'onda, interessa colpire le persone e cercarle di influenzarle. Io ho iniziato a scrivere principalmente perché mi sentivo una persona totalmente incompresa, che non riusciva ad avere un obiettivo, una passione nella vita. Mi sentivo... era una questione di solitudine, mi sentivo solo. E scrivere era molto facile, semplicemente non serviva nulla, serviva un pezzo di carta e basta. Quando poi sono arrivati gli smartphone, ho iniziato a scrivere nelle note del cellulare. Io avevo sempre il cellulare a portata di mano e questo mi ha portato a fare moltissimo esercizio, perché l'unica cosa che serve davvero per essere artisti, al di là di una sensibilità di base che moltissime persone hanno, è la pratica, tantissima pratica. La pratica permette di creare tecnica, è l'unica cosa in cui credo veramente. E quindi ho iniziato perché avevo bisogno di farmi sentire da qualcuno. E posso dire che entro i 20 anni ci sono riuscito. Adesso ho 25 anni, però già quando avevo 20 anni avevo pubblicato il mio primo romanzo. Tanta gente mi seguiva. Sono riuscito a vendere più di 200 copie tra il mio romanzo e il mio libro di poesie. E io ero già felice così. So che sono dei numeri abbastanza ridicoli, abbastanza piccoli, ma è come aver trovato uno scopo nella vita. E averlo già trovato a 20 anni è stato qualcosa di davvero gratificante. Sono riuscito poi, anche grazie a questo, a completare i miei studi. Adesso sto attualmente facendo la mia tesi in giurisprudenza. E sono riuscito a parlare per tantissimi minuti senza leggere nemmeno una poesia. E sono felicissimo di questo. E forse sarebbe il caso di fare una chiusura con lettura di poesia. E vi leggerò. Dopo il discorso che ho fatto, non posso che leggervi la mia poesia preferita tra quelle che ho scritto, che penso che sia quella che mi rappresenta di più, che si chiama Bonaccia. Essendo come il vento, vengo e a stento avvengo, muto di vento e muto mi stendo, implodo di tempesta spesso, e spesso vesto la veste di distese meste, lasciate scie di brine fredde se mi toccate, e ritrovate maree alte, malte bianche, barche stanche. Sono il marmo nei giorni di buono, bonaccia usignuola che muore tra un'ora. Grazie e buona serata a tutti. Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.